Va ora in onda Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso. Bene, un cordiale buongiorno a tutti quanti voi, si va per dire buongiorno perché insomma siamo sotto, a meno in montagna, sono sotto la coltre di neve, la nostra solidarietà a Gangi, Petralia, Castellana, San Mauro, un po' Pollina, insomma poi freddo anche lungo le coste tirreniche e non solo, la Sicilia è stata investita in pieno da uno tsunami di freddo pari a 2 gradi centigradi, 7 gradi su Castelbuono, 7-8 gradi su Cefalù, quindi però insomma voli dirottati, disagi, e poi c'è un altro disagio che sto leggendo stamattina qui sul giornale che ho sulla mia destra davanti agli occhi, alto là di Bersani a Monti, e cominciamo con gli altri guai, questo è un altro tsunami che prima o poi insomma sicuramente guai se si tocca l'articolo 18. E altre notizie, non parliamo di sport in questo momento, formazione docenti con le licenze elementari, ci sono delle novità in assoluto, questa è la prima pagina di Spalla, scoperto il corpo carbonizzato di una donna, il vento mette in ginocchio la Sicilia, era quello che dicevamo prima, con alberi divelti sull'autostrada A19 in direzione Palermo, sono stati bloccati per quasi un'oretta una lunga coda di autoveicoli, i voli sono stati dirottati provenienti addirittura da Monaco, provenienti da Genova, da Rimini, dell'aeroporto Fontanarossa di Catania e Birgi di Trapani. Si spera che il meteo possa migliorare nelle prossime 24-48 ore, anche perché dovrei volare, e chissà che succede. Allora, tantissimi ospiti in studio, oggi abbiamo un esponente del PD, dico bene, sì, un esponente del PD che consigliere di opposizione al comune di Cefalù, e poi tantissimi giovani dietro le mie spalle con il presidente di questo movimento, Movimento Giovani Italia di Castelbuono. Di cosa parleremo? E come ovvio che sia, parleremo un po' di politica, ma in senso generale, senza andare nel particolare. Con il dottor Lapunzina toccheremo l'argomento Cefalù, cos'è che in questi anni non si è fatto Cefalù, cos'è venuto a mancare Cefalù. Visto che lui è un consigliere di opposizione, chi meglio di lui può ragguagliarci su quelle che sono state le defiance di questi 5 anni a guida Guercio e negli anni precedenti anche a guida di altri sindaci, cos'è che bisognerebbe secondo lui fare perché Cefalù possa riemergere primus inter paris, almeno per quanto attiene le Madonie? Perché questo è il compito di Cefalù, fare da asse trainante all'economia madonita, e questo fino ad oggi almeno non è successo. Castelbuono comunque ha risposto bene rispetto a tutti gli altri paesi del comprensorio, si è portato avanti con l'economia e soprattutto col turismo, cosa che a Cefalù c'è stata come presenza, ma mordi e fuggi e la cosa lascia molto il tempo che trova. Fatto questo primo cappelletto d'inizio, ringrazio ancora gli ospiti per essere presenti qui, tra poco cominceremo questa kermesse para elettorale, ma non è elettorale, e desidero ringraziare naturalmente tutti quanti voi che come sempre ci ascoltate, ci seguite, non soltanto me con Carta e Penna ogni giovedì, in differita domenica, vi ricordo l'orario 12.30, 12.15 giovedì in diretta, mentre la differita è domenica alle ore 9.30, 10 di mattina, mi facendo il nostro fonico che saluto e ringrazio come sempre alla parte tecnica Simone, e il mio Raul Bova in miniatura, insomma, tante telefonate che arrivano per Simone, ma lui non risponde mai perché ormai è innamoratissimo. Fatta questa premessa, desideravo ringraziare gli sponsor senza i quali non sarebbe possibile nessuna emittente radiofonica televisiva privata poter portare avanti dei programmi di informazione o dei programmi anche a taglio musicale, e quindi grazie a loro, con il loro contributo, ci consentono di andare in onda ogni giovedì. Desidero ringraziare innanzitutto il ristorante ai sapori di mare, a Termini Imerese, lungomare Cristoforo Colombo 8 bis. Vi do il numero, perché vi do il numero di telefono per le vostre prenotazioni, perché per Natale e Capodanno ci sono i cenoni, adesso vi dico per sommi capi quello che vi porteranno a tavola i signori del ristorante ai sapori di mare, lo chef cosa preparerà per questi 2 giorni straordinari. Intanto avete anche la possibilità di comprare e acquistare frutti di mare ricci, crostacei, cotti e crudi, sì, cotti, avete sentito bene, perché se vostra moglie, vostra mamma, la vostra fidanzata non vuole cucinarvi, non c'è problema, basta passare in via Lungomare Cristoforo Colombo 8 bis a Termini Imerese, acquistate direttamente già il cibo ben cotto, questi molluschi di mare sono straordinariamente freschi, ma ci sono anche i crostacei che sono freschissimi, li portate a casa vostra e avete risolto il problema del pranzo o della cena senza litigare con la vostra fidanzata o con vostra moglie. Allora, quando la passione incontra il gusto, e ha ragione il titolare del ristorante ai sapori di mare di Termini Imerese, perché è un signor ristorante, perché vi serve veramente del pesce freschissimo ancora col sapore di mare. Ristorante ai sapori di mare, menù pranzo di Natale Natale, gli antipasti, pensate, carpaccio di polpo marinato, gamberi, salmone in salsa di rucola e tortino di sarde con caponata di frutta. I primi piatti, vi ne dico soltanto uno, risotto cuore e di cardi, carciofi e gamberi, agnelotti di Cernia, ragazzi, basta, mi è venuta già fame. Invece, per quanto attiene quello di, questo era quello di Natale, passiamo al menù di Capodanno, al menù cenone di San Silvestro, gli antipasti, fantasie di ostriche, fasolari, gratin, polpettine di polpo, supplì al salmone, insalate di seppie e di gamberi in salsa di rucola. I primi piatti, c'è crepa all'aragosta con salsa di crostacei, i secondi piatti, soltanto uno ve le dico perché la curiosità ve la devo lasciare, la scaloppa di salmone e scampi imperiali. Ricordate questo nome straordinario, ristorante Sapore di Mare, lo trovate in via Lungomare Cristoforo Colombo 8 bis a Termini Imerese, vi do il numero 091 81 11 447. Detto questo, ci fermiamo un solo secondo per una brevissima pausa musicale, al rientro con il consigliere Lapunzina parleremo dei problemi di Cefalù. Occhi di ragazza, quanti cieli, quanti mari che m'aspettano. Occhi di ragazza, se li guardo vedo i sogni che farò. Partiremo insieme per un viaggio per città che non conosco. Quante primavere che verranno, che felici ci faranno, sono già negli occhi tuoi. Occhi di ragazza, io vi parlo col silenzio dell'amore e riesco a dire tante cose che la bocca non dirà. Quando ti risvegli la mattina, tutto il sole nei tuoi occhi. Quando si fa notte nella notte, nei tuoi occhi c'è una luce che mi porta fino a te. Un giorno in loro scoprirò quello che tu nasconderai. Prima o poi sarà finito. E allora, dopo questa bella canzone, almeno a me mi piace, direbbe un grande attore romano e ho avuto il piacere di conoscere, ed è una persona molto simpatica, a me mi piace, lui si riferisce al caffè, io mi riferisco alla musica anni 60, perché comunque mi ricordano, mi fanno tornare indietro di moltissimi anni. Allora, Saro Lapunzina. Lo sai, Lapunzina, vogliamo salutare il... No, puoi parlare anche da quel microfono fisso senza nessun problema. Allora, Rosario, tra poco sì, elezioni comunali. Ti aggiungo capogruppo del Partito Democratico in Consiglio Comunale, consigliere comunale da 9 anni. Questo... Sei un ammiraglio, insomma, tanti gradi sulle spalle. No, tanti gradi? Anni di politica, no. Invece, questo è vero, tanti anni di impegno nel consigliere sociale. Consigliere nazionale del Lanci. Insomma, che più ne ha più ne metta, sei un personaggio, questo lo sapevamo, scuso la mia ignoranza. No, ma io non soltanto vale chiedere... per completare la tua presentazione. Ah, so. Benissimo, allora... parliamo un attimo di quello che è stato nel tempo Cefalù, parliamo degli ultimi 10 anni, cos'è che non ha funzionato Cefalù, perché Cefalù si è ridotta tra virgolette a non essere più l'asse trainante, questa locomotiva economica che doveva trascinare anche l'entroterra, no? Delle Madonie, il tuo paese, Gangi, San Mauro, Pollina, Castelbuono, mettiamolo un po' da parte perché è una cosa a sé, però Cefalù certamente negli ultimi tempi ha perso un bel po' di smalto, non si fanno più gare di un certo livello, mi ricordo il pugilato molti anni fa, poi passata a Capodorlando, comunque c'è stato questo depauperamento, come dire, mediatico, non è più in auge, non si vede quasi mai in televisione, non se ne parla quasi mai. Secondo te quali sono i punti essenziali che hanno fatto sì che questa cittadina normanna con tanta storia alle spalle non sia riuscita ad emergere più di tanto? Prima di tutto dissento dal fatto che Castelbuono è una situazione a parte, assolutamente, il ragionamento che ho fatto complessivo è penso che quando si parla di città rete madonita si parla di tutti i comuni delle Madonie, ed è evidentemente Cefalù deve svolgere un ruolo che ha svolto negli anni passati e che ultimamente, questo non per fare l'oppositore, ma per colpa dell'amministrazione, si tiene fuori da quello che è un lavoro comune, dicevo poc'anzi, comune di tutti i paesi e le Madonie, dove Cefalù aveva tutte le carte in regola per essere il punto centrale. Noi ricordiamo che siamo stati comune capofila per diversi anni, non lo siamo più da qualche anno, nonostante noi abbiamo tutti e cinque i requisiti per essere comune capofila, per esempio dei PIST, lo è Gangi, fa piacere perché io sono originario da lì, sono nato lì, però evidentemente Cefalù perde un ruolo che è un ruolo che gli spetta rispetto anche a tantissime cose che è quello che può rappresentare. Per cui diciamo che è stato un errore grave che ha fatto questa amministrazione. Non penso che sia importante essere in auge o con gli spot pubblicitari come si è fatto nei tempi della precedente amministrazione, non parlo di questa amministrazione Quercia, ma della precedente quando c'era Simona Vicari, perché quella pubblicità che può andare benissimo, che serve anche al comune, e deve poi avere rispondenza in quelle che sono la crescita dei servizi e l'offerta turistica che il paese riesce a dare. Ecco, che cosa è mancato in questi ultimi anni? Cefalù è cresciuta rispetto anche ai posti letto, rispetto anche alla possibilità, ma nello stesso momento non sono cresciuti i servizi, perché una città quando cresce deve crescere per intero, non può crescere soltanto cercando magari di offrire più posti letto, più possibilità dal punto di vista di attività, avendo anche una crescita economica in questo senso, però avendo problemi che non vengono risolti e che non sono stati risolti. Io faccio un esempio: quando nel 2005 in Consiglio Comunale è arrivata una proposta di un piano di lottizzazione, un mega piano di lottizzazione per una struttura alberghiera denominata Pier Vacanze, oggi Epimag, perché è stata diciamo acquistata all'Epimag, io ebbe a dire in Consiglio Comunale che per noi andava benissimo a arrivare anche a far sbarcare qui la Pier Vacanze, ripeto ora Epimag, e quello che poi poteva portare anche tutto questo, però avevamo un grossissimo problema, il problema del depuratore, cioè noi altri avevamo la difficoltà enorme che i reflui di una così grande struttura dove c'erano 600-700 posti letto, perciò quasi il doppio di Sant'Ambrogio, caricandoli ancora una volta su un depuratore che è sottodimensionato, avrebbe creato negli anni problemi. Ecco, quello che io ebbe a dire nel 2005, nonostante le promesse della precedente amministrazione, che diceva che da lì a poco partiva il secondo depuratore incontrato a Torre Tonda, si sono verificati in questi anni. Abbiamo un depuratore comunale che è stato sequestrato oltre un anno e mezzo fa, con tutto quello che è un'inchiesta che è in corso, rinvia giudizio, indagini e poi anche ora richieste rinvia giudizio, per problematiche che sono evidentissime, cioè la città è cresciuta, ma i servizi e tutto quello che deve crescere attorno alla città è rimasto tale e quale. Noi abbiamo una situazione che riguarda i parcheggi, per esempio, la viabilità, che è una situazione che è rimasta ferma tanti anni fa, e invece questo non può più essere consentito. Cioè chi viene a Cefalù deve trovare la possibilità di lasciare la macchina senza trovare sorprese, evidentemente girare Cefalù, stare tranquillo, utilizzare, andare al ristorante, andare a vedere il museo, andare a guardare la cattedrale, non col pensiero di non poter mettere la macchina o di non sapere mettere la macchina. Ti fermo un attimo, perché vorrei un attimo che interagisse per due secondi tutte. Con piacere. Allora, passo a presentarvi adesso invece il presidente di questo movimento Giovane Italia, che è Giorgio Campo, dottor, futuro Giorgio, ti ho chiamato già dottore, ti ho già laureato, è un buon viatico, non ti preoccupare. Tu invece, lui stava parlando un attimo, no, ti puoi spostare il microfono, ve lo dividete entrambi. Tanto siamo buongiorno a tutti. Siamo tutti amici, buongiorno a te, grazie per essere venuto. Tu vivi in una realtà invece diversa da Cefalù, diversa perché è locata in altra posizione. Parliamo di Castelbuono, tu sei giovane, lui è navigato sia come politica, perché insomma tantissimi anni di politica, tu ti affacci da poco tempo alla politica. Ti chiedo questo, secondo te invece, in prossimità delle future elezioni che anche Castelbuono sta affrontando, c'è una similitudine, si può accostare Castelbuono a Cefalù per quanto attiene i parcheggi, per quanto attiene la viabilità? Cosa c'è a Castelbuono che non funziona, per esempio? Ma mi corre l'obbligo innanzitutto di ringraziare Filippo Glorioso che mi ha invitato, il gruppo, quindi il circolo di Giovane Italia Castelbuono. Ringrazio anche il consigliere Lapunzin, a cui vanno tutti i miei complimenti per l'operosità nell'opposizione che ha fatto lungo i suoi anni, e anche un complimento, spero io lo riporti, anche al fratello, che so che si muove bene. Ma un accostamento Cefalù-Castelbuono penso sia possibile, ma bisogna partire da un punto focale importante. Quanto è grande Cefalù dal punto di vista turistico, economico, e quanto effettivamente realmente è cresciuta Castelbuono. Ma guardi, i livelli di Castelbuono sono piuttosto di Cefalù sono piuttosto alti, e diciamo Castelbuono sì, è entrata all'interno di una logica molto più ampia dal punto di vista turistico. Non a caso qualche trovata dell'amministrazione, come la presenza degli asini o quella di sostenere che il paese con meno impatto ambientale nelle Madonie, ha portato a una nomea piuttosto ampia, soprattutto nell'ambito dei paesi limitrofi, anche nell'ambito madonita, nonché siciliano. Purtroppo dobbiamo riscontrare, e noi lo abbiamo fatto in primis come Circo del Giovane Italia, ma soprattutto come giovani, dobbiamo riscontrare che la crescita totale, diciamo, non ha rispecchiato quella turistica. Perché se è vero, come è vero, che Castelbuono è conosciuta anche fuori, diciamo, dall'ambito locale, noi palesiamo notevoli gap rispetto ad altri soggetti. Citiamone uno di questi gap. Il più grande lo chiedo anche a lui, uno, per fare un esempio tangibile. In questo voglio rapportarmi al consigliere Lapunzin, perché il problema dei parcheggi, ad esempio, a Castelbuono è conseguenziale a un problema ancora più grande. Castelbuono ha speso migliaia di euro per attuare un piano del traffico ed una viabilità. Noi abbiamo appunto fatto una campagna sulla viabilità. Sebuono è una versa in una completa anarchia, sia riguardo il traffico, ma cosa ancora sempre più importante, ancora più preoccupante e allarmante per i cittadini stessi, non vi è cura del manto stradale. Soprattutto per chi conosce Castelbuono sa che Castelbuono si amplia molto nelle campagne. Le campagne sono dissestate, sembrano tutte delle lattoniere. Pertanto appunto non è il fattore turistico, non si è sviluppato parallelo a quello che doveva essere lo sviluppo interno per Castelbuono. Il turista che arriva a Castelbuono, diciamo quello per eccellenza del palermitano che si muove la domenica, vede il centro, va nei ristoranti, vede attività, nel momento in cui vuole effettivamente capire cos'è Castelbuono, qual è la storia, qual è l'ampiezza effettiva di Castelbuono e dei castelbonesi, non ha la possibilità di accettare e di apprezzare bene quello che è Castelbuono come dovrebbe. Ringrazio un attimo l'amico, torniamo. Ecco, come vedete ci sono poi, no? Lapunzin, ci sono delle cose che sono simili da diversi paesi, magari per cultura diversa, perché questo è un paese di mare con prestazione. È successo qualcosa? Pregherei è a posto lui, si fa tutto lui. È anche un tecnico audio. Ti dico una cosa che fa una certa emozione essere qui alla radio, perché sono stato uno dei primi collaboratori di Cefalù Radio Madonie. Ah, bene. Lo ricordo nel 1976-77, per cui eravamo in via Roma, e allora avevo soltanto 17 anni. Sei ancora giovanissimo. Senti, Rosario, allora, come vedete e come avete sentito dalla voce anche dell'amico Campo, ci sono cose molto simili tra i paesi. Lasciamo stare adesso se Castelbuono fa 9.000, Cefalù è 15.000, però per sommi capi poi, quando si va a confrontare il turista che arriva, i problemi sono quelli. Ti volevo chiedere una cosa a proposito di questo benedetto porto di Cefalù. perché si parlava tanto di ristrutturazione, di finirlo, non si è mai finito, inchieste sopra, inchieste sotto, eccetera. Ma è possibile creare veramente un porto d'eccellenza a Cefalù, secondo il tuo modesto punto di vista? Rispondo subito alla domanda, però prima volevo dire, evidentemente il turismo che c'è a Cefalù è diverso da quello che c'è a Castelbuono, l'ho già detto l'amico, e possiamo dire che Cefalù potrà risolvere i problemi che in questi anni non ha risolto, perché ha tutte le carte in regola per farcela. Evidentemente bisogna partire prima di tutto dalla vivibilità, bisogna recuperare una vivibilità, cioè il cittadino cefaludese, ecco, deve accettare di buon grado che viene il turista e deve accoglierlo col sorriso, se prima riesce a stare bene nella propria città, se riesce a soffrire meno rispetto a quelle che sono ecco poi le problematiche che ti porta anche il turismo e quello che, quali sono le problematiche? Evidentemente sono quelle che legate alla quotidianità, e noi abbiamo parlato di parcheggi, abbiamo parlato della vicenda del depuratore, ma sono tutte cose concatenate anche rispetto a quello che poi diventa Cefalù d'estate, cioè iniziare dal 1 giugno fino al 30 settembre, la popolazione cefaludese, cioè chi vive a Cefalù, trova poi tantissima gente che viene qui, saranno 40.000, 35.000, 40.000 abitanti, per queste persone, per tutti questi che vengono qui a trovarci, è utile che noi ci facciamo trovare preparati. Ecco perché è importante recuperare la vivibilità. Cioè noi non possiamo fare turismo lasciando così il lungomare nella situazione di degrado in cui è. Non possiamo fare turismo con la situazione dei parcheggi, ma anche con la situazione delle strade di Cefalù, che sono una... Ecco che ritorna il tema della viabilità. Per cui qual è la situazione, qual è l'aspetto che in questi anni, diciamo, purtroppo ha portato Cefalù a non crescere anche? La situazione economica e finanziaria. Cioè quello che Cefalù sta vivendo è un momento tragico, perché noi altri abbiamo avuto, negli anni che vanno dal 2002 al 2007, Cefalù è stato spremuto come un limone. Per cui quell'amministrazione di quegli anni ha badato moltissimo all'immagine, per cui anche con che ti posso dire, la città delle donne, tutta una serie di spot che andavano benissimo a Castelbuono, l'asino, qui e tantissime altre cose. E la città, diciamo, non è cresciuta se non c'è stata questa immagine che è venuta fuori come una città splendida, tranquilla, e nel frattempo si facevano un mare di debiti fuori bilancio. Cioè nel frattempo la città, ecco, purtroppo spendeva soldi che non aveva, cioè tutte risorse, si indebitava e tutte risorse che sono venute meno. Sono stati gli anni, andiamo alla tua domanda, sono stati gli anni in cui si è tentato di far partire anche la messa in sicurezza del porto. Io ricordo come se fosse ora, uno dei primi atti che sono arrivati in Consiglio Comunale era quella di superare, ecco, la concessione demaniale per fare lavori al porto con un escamotage, per carità, che ben venga, che era quella di mettere in sicurezza il porto. Il nostro porto è insicuro rispetto a quelle che sono le mareggiate, i venti che vengono dal Grecale, per cui è evidente che andava messo in sicurezza. E che cosa è successo? È successo che negli anni la precedente amministrazione ha tentato un progetto di finanza che era forse l'unica strada percorribile per questo, per cercare di realizzare un nuovo porto. Strada che purtroppo non è stata condivisa dall'assessore territorio ambiente, il quale non ha dato la concessione demaniale per fare questi lavori, e il project financing non è andato in porto, perché possiamo dire come battuta, e per cui evidentemente tutto si è arenato. Negli ultimi anni, ecco, di questa amministrazione la cosa è andata a peggiorare, perché l'unico pontile che c'è, che è il pontile AT, purtroppo ha avuto dei cedimenti. Mi dispiace citarla ancora una volta, l'amministrazione non è stata capace di far arrivare un finanziamento di somma urgenza di 300.000 euro, perché era questo quello che ci volevano, e noi siamo ancora con un pontile AT che non è percorribile nemmeno a piedi, perché diciamo che è chiuso al transito, e con un pontile galleggiante che cerca di risolvere i problemi per i natanti. Il porto, voglio aggiungere, è qualcosa di importantissimo per Cefalù, per cui speriamo che nel futuro riusciamo a far ripartire un progetto di financing, perché solo in questo modo può essere risolto il problema del porto Cefalù. Io me lo auguro, io da candidato a sindaco del comune di Cefalù, perché ho già annunciato la mia candidatura, e a questo proposito mi faccio un po' di pubblicità, dico che domani sera ci sarà l'inaugurazione della sede elettorale in piazza Garibaldi alle ore 18, per cui invito coloro i quali sono all'ascolto e a fermarsi magari anche per farci gli auguri. E ripeto, io da candidato a sindaco cercherò di proporre le mie soluzioni anche per la soluzione per trovare anche possibilità di trovare, ecco, un rimedio a quella che è questo annoso problema e la mancanza del porto Cefalù. E non è soltanto quello. Campo, ti fermo un secondo, devo dare la linea alla regia per la pubblicità, altrimenti qui ci sparano addosso. Subito dopo rientriamo con una domanda per te, per capire invece se ci sono altre tematiche da affrontare. Sicuramente ci saranno a Castelbuono. Cosa pensa il vostro gruppo, comunque andrà a finire, di fare come promozione per un po' appoggiare o quantomeno criticare tra virgolette o pungere chi sta seduto nell'alto scarno, per far capire in effetti dove bisogna porre le mani, non soltanto con spot pubblicitari come diceva prima lui, perché poi nella realtà delle cose la gente si deve confrontare col quotidiano. Sorprendo un po' di invento, un po' di dei, ogni tanto perdo il filo, forse non ci sei, non hai nome, chi ti crede, fiore di ninfe, duri un attimo. Allora, vi ricordo che sto ascoltando Carta e Penna, programma condotto in studio da Filippo Grosso, alla console c'è sempre Simone, e stiamo parlando di attualità politica, senza entrare poi nel merito di cosa non va fino adesso, non è andata a Cefalù, il perché di questa regressione cefaludese, anche sotto il profilo turistico se vogliamo, di quello che ne stiamo parlando con il consigliere di opposizione La Punzina, candidato a sindaco, l'ha detto lui, per le prossime amministrative, quindi a maggio mi pare che si voti, e poi invece per quanto attiene Castelbuono stiamo parlando con l'amico Giorgio Campo, giovanissimo presidente di questo movimento Giovani Italia di Castelbuono. Abbiamo sentito alcuni aspetti deleteri, cioè che sono dannosi per la città di Cefalù, che è a vocazione turistica, lo è sempre stata. Abbiamo parlato un po' di quello che è successo a Castelbuono, non soltanto del turismo un po' meno rispetto a quello di Cefalù, ma delle tematiche delle campagne, e poi quando il turista vuole andare a Milocca, vuole andare a Vinziria, in posti insomma molto belli di Castelbuono, non può recarsi perché le strade, diceva prima l'amico Campo, la viabilità lascia molto a desiderare, i parcheggi lasciano a desiderare. Addirittura a Castelbuono, e l'abbiamo denunciato più di una volta di persona per mezzo radio, il mercato rionale che si fa ogni giovedì addirittura dentro il paese, non essendo ancora pronta la circonvallazione, si va ad inficiare e ad intasare via Cefalù, che è la strada principale che porta poi per Gerace dentro terra Madonita. Allora, Giorgio, quando nasce l'idea di fare questo gruppo, questo movimento Giovani Italia, cosa avete fatto in questo periodo da quando siete nati fino ad oggi e cosa vi prefiggete di fare per l'immediato futuro? Allora, devo dire, innanzitutto voglio complimentarmi nuovamente con l'operosa e certosina opera d'opposizione del consigliere La Punzina. Non ho il suo stesso curriculum, ma devo dire, in termini... Sì, è ancora giovane, voglio dire, quindi il futuro... Perché appunto l'apprezzo. Giovani Italia nasce il 3 luglio, ufficialmente, 3 luglio di quest'anno. E paradossalmente è stata una scommessa ad oggi, devo dire, vinta. Vinta perché Giovani Italia era nata in punta di piedi, si voleva inserire in punta di piedi su un contesto... principalmente giovanile inesistente. A Castelbuono non si è mai fatta politica giovanile se non salvo per gli ambiti prettamente elettorali e per le logiche clientelari anche dell'amministrazione. Mi dispiace denunciarlo, ma purtroppo è così. Nasce dall'intuizione di un gruppo di 5 ragazzi, alcuni sono qui, poi magari avremo il piacere anche di sentire. Come no, sentiremo, li saluteremo, ci mancherebbe. All'intuizione di 5 ragazzi che hanno capito, hanno percepito appunto questa anomia della politica giovanile, l'assenza della politica giovanile a Castelbuono, partendo da un presupposto importante che tuttora determina una situazione politica, quella della rivoluzione culturale e dell'appartenenza identitaria. Le notevoli evoluzioni del contesto locale a Castelbuono hanno portato ad una totale assenza di quello che è la considerazione giovanile. Abbiamo percepito innanzitutto il malessere che purtroppo dobbiamo registrare anche a livello nazionale, nonché mondiale, dettato principalmente dalla crisi, quindi dai fattori occupazionali, dagli sbocchi che in un paesino di provincia un giovane non ha. Da questo devo dire che possiamo staccarci dalla logica cefalutana, cefaludese, no? Dobbiamo dire cefalutana, la logica cefaludese, perché gli sbocchi lavorativi a Cefalù sono ben diversi, oltre che ampi, appunto il settore turistico è anche diverso per questo motivo. Castelbuono è una situazione giovanile dal punto di vista occupazionale ferma. Vi sono giovani che, pur diplomandosi, pur continuando gli studi, arrivano ad un periodo della propria carriera, della propria vita, con interrogativi piuttosto pesanti, grossi e con scenari aberranti sul proprio futuro. Nascono appunto seppur appunto la situazione generale, mondiale, nazionale è piuttosto mortificante, abbiamo capito come a Castelbuono, anche nel piccolo, non è stato possibile capire cosa si poteva fare. Ma oltre questo, questo atteggiamento è stato recepito anche come un'assenza da parte delle istituzioni nel poter intervenire in determinati ambiti. Pertanto questo ha portato anche ad un venir meno all'interno dei giovani di quello che è il senso civico, di quello che è il senso, cioè, l'interesse verso la politica della res pubblica. Perché essere costantemente criticati, qua avete la villa, noi abbiamo un punto di riferimento su Pro Ponte, ed essere considerati come quelli che vivacchiano su Pro Ponte e basta, sinceramente è piuttosto mortificante. Allora abbiamo capito che almeno noi, il gruppo, cioè il nostro gruppo, che oggi comunque è partito da quei cinque, grazie all'intuizione di quei cinque, ma oggi lo sposano, ad oggi siamo circa 35 persone, 35 ragazzi e ragazze, abbiamo capito che bisognava dare un segnale forte. Non era più possibile e non è più possibile continuare a, ad aspettare qualcosa che venga dall'alto, almeno abbiamo capito che bisogna provarci. E sin dal 3 luglio con l'inaugurazione, devo dire che il nostro circolo è intitolato a Alfredo Cucco, personaggio di spicco nella politica castelbonese, ma anche quella regionale e nazionale, fondatore del Movimento Sociale Italiano. Il nostro gruppo sin dal 3 luglio ha portato avanti iniziative brillanti, partendo appunto dalla prima, che è stata quella sulla viabilità, devo dire piuttosto sarcastica, perché abbiamo intitolato la campagna come vieni a giocare anche tu a, a golf a Castelbuono, con un chiaro riferimento a tutti i disagi legati alle buche, legati alle defaillance del manto stradale a Castelbuono, che ha ricevuto notevoli apprezzamenti perché in amministrazione o all'interno della stessa opposizione nessuno si era mai permesso o aveva mai pensato di denunciare pubblicamente una situazione. Era una questione di miopia, vedevano la strada tutta fatta bene, no, quindi perché, non c'era motivo, c'è la logica, c'è la logica di affidare sempre prettamente siciliano, vabbè, tanto qualcuno ci penserà, esatto. Non ci pensava nessuno. Successivamente noi abbiamo anche deciso di sposare una logica sia locale, ma che abbraccia anche tematiche che vanno oltre l'ambito castelbonese, come quelle regionali e nazionali. Infatti siamo stati presenti giorni dopo, sempre a luglio, sotto l'ARS, sempre la regione siciliana, a contestare le varie accuse che sono attorno a molta parte dei deputati regionali, sostiene noi non ci sta bene. In seguito un'altra importantissima, se non determinante, questo forse devo dire è quello che ci ha consacrato, è stato il sondaggio fatto per chiedere un'opinione ai cittadini castelbonesi sullo spostamento, sulla questione aperta sempre da noi, perché diversamente sarebbe passata senza nessuna impasse. Sulla questione del giro podistico. Il giro podistico, uno degli eventi, a mio avviso, più importanti, più importanti per Castelbuono, ma non valorizzato come tale. Devo dire, forse sono uno o il primo che lo fa, oggi, anzi pochi giorni fa, il giro podistico è entrato nel circuito delle Golden Race, vale a dire quel circuito che vede appunto raggruppare le più importanti gare del mondo. Questo è un merito che va dato a tutta l'organizzazione. Devo fermarti un attimo, perché vedevo sorridere il futuro sindaco, cioè il candidato sindaco di Cefalù. Gli passi un attimo il microfono all'amico La Punzina, tanto lui è un tuo estimatore. Il sindaco è un melaguro. No, beh, sai, a volte non si sa mai, no, non voglio essere blasfemo, perché sennò poi capisci che rischio. Io auguro a tutti quanti voi che vinca il migliore, come è giusto che sia. Tu sei amico, sono amico di Guercio, sono amico di tutti gli altri candidati, per cui mi pare giusto dare, non fare le discriminanti, ma dare a tutti la stessa opportunità di poterlo diventare, perché no? Ti vedevo sorridere, sorridevi perché ti immedesimavi, no, quando tu eri giovane, che avevi un punto di riferimento, mentre lui giustamente diceva oggi i giovani non hanno più alcuni punti di riferimento, no, partitici, no? Dei partiti. Positiva, che altro ridevi? No, capisco, no, che non è uno sfottò, ci mancherebbe, no, altro, nella forma più assoluta. E mi fa moltissimo piacere, a Castelbuono, che è un paese dove c'è una vitalità estrema, dove ci sono tantissime associazioni, e che ci sia stata anche la nascita di questa Giovane Italia rispetto anche alla partecipazione che diceva l'amico Campo di 35-40 ragazzi, penso sempre più in crescita, diciamo che un movimento nato soltanto a luglio, da pochi mesi, per cui diciamo importantissima. Ed è sorridevo perché pensavo a quanto sta succedendo anche a Cefalù, dove tanti giovani stanno cercando di avvicinarsi sempre più alla politica, perché ormai la gente vuole vedere risolti i problemi, non, è stanca, anche la mia azione, quella di questi anni, l'azione è stata di denuncia, della quale io sono soddisfattissimo perché, ripeto ancora una volta, ho cercato di risolvere alcune delle problematiche, ho cercato di fare meno danni possibili alle precedenti amministrazioni. Ricordo per tutti che abbiamo raccolto 5.000 firme per evitare la privatizzazione del cimitero. Cosa che era già, si parla ancora, si parlava, c'era già un affidamento che è stato poi revocato dall'amministrazione Vicari allora per privatizzare il cimitero. Ma come queste, come tantissime battaglie, le battaglie di denuncia che sono state fatte in questi anni, importantissime, quella di avere trovato all'interno del comune un ragioniere che faceva i mandati a una sua collega per qualcosa per quasi 200.000 euro. E avere fatto fare un'ispezione nel 2007 al Ministero dell'Economia e delle Finanze per un comune di 15.000 abitanti, rispetto anche al fatto che il Ministero preferisce comuni molto più alti, molto più numerosi rispetto al nostro, e avere fatto poi avere avuto con soddisfazione anche dallo stesso Ministero per una relazione che era che diceva quello che aveva trovato di marasma contabile anche all'interno dello stesso comune, è stata un'azione svolta in questi 10 anni importantissima, ripeto, per il comune di Cefalù, che ormai si è conclusa. Noi dobbiamo andare anche a cercare di mettere mano a risolvere i problemi. Io ho deciso, dopo oltre un mese di meditazione anche rispetto a quello che è il gravoso compito, qualora eletto, di andare a amministrare una città che è ridotta in questo stato, perché lo possiamo dire che è ridotta in uno stato particolarmente sofferente, diciamo, per quelle che non sono soltanto il discorso delle risorse economiche e finanziarie, ma per quanto non si è fatto in questi anni. Cioè, in questi anni che abbiamo avuto difficoltà enormi, la città è andata indietro e se a Castelbuono si gioca a golf, e qui non possiamo nemmeno più giocare a golf perché evidentemente le buche sono così grandi, talmente enormi, sono voragini. Per cui, scherzi a parte, dobbiamo passare alla fase della ricostruzione e della soluzione dei problemi. Dicevo poc'anzi, Cefalù ce la può fare, Cefalù ha grandissime potenzialità, Cefalù ha bellezze naturali che sono inviate da tutti, dobbiamo cercare di risolvere i problemi partendo dalla viabilità, lo dicevo poco fa, ma cercando di mettere ho fatto un'interrogazione in questi giorni, mettere a reddito il nostro patrimonio, cercare anche di offrire alla città una città accogliente, una città che sia, io non capisco come mai per esempio in questi anni non si è fatto una cosa semplicissima, che era quella per esempio di offrire al turista la possibilità di vedere il teatro comunale, il lavatoio medievale e la fondazione mandralisca, che sono tutte e tre nello stesso asse di una strada, a meno di 100 metri l'uno dall'altro, e vendere un ticket unico di 6 euro per esempio per offrire queste cose, però cercando di curare il lavatoio medievale, aprire il teatro comunale e rendere, diciamo, fruibile anche la fondazione mandralisca, che molti magari non vanno a trovare perché nemmeno sanno dov'è. Perfetto. Ecco, partendo da queste cose, partendo dal fatto che per esempio noi abbiamo la Rocca di Cefalù, un regolamento approvato a settembre del 2010 prevede che la Rocca di Cefalù venga gestita dal comune, abbiamo 93 contrattisti al comune di Cefalù, alcuni anche di categoria A, che potremmo benissimo utilizzare senza che nessuno si offenda per cercare di fare l'apertura e la chiusura della Rocca Cefalù su 2 turni, mattina e pomeriggio, fare pagare un biglietto d'ingresso, dare la possibilità alle associazioni locali ambientaliste di fare delle guide, cercare di fare da volano per l'occupazione, cercando anche di dare dei servizi anche nel perimetro della Rocca, per cui stiamo parlando anche del piccolo bar, della vendita del souvenir, non all'interno della Rocca sicuramente, ma come si fa in tutti i luoghi dove c'è un certo rispetto, dove sono zone sicche, sono evidentemente fuori dal perimetro della Rocca. E si può fare questo e tantissimo altro. Io ho detto soltanto alcune cose. Ecco, ripartiamo diamo una svolta evidentemente a questa città, perché lo vogliono i cittadini, e cerchiamo di far restare bene, lo voglio ripetere, i cittadini a Cefalù, offrendo loro la possibilità anche di avere un parcheggio per poi lasciare libero il centro storico, perché se tu al cittadino di Cefalù devi dire che non deve parcheggiare la macchina in via 25 novembre, perché la via 25 novembre è a 10 metri dalla piazza Duomo, e per cui sgombra da macchine è più bella, è più accogliente, è la strada dove ci sono anche dei ristoranti. Al cittadino della via 25 novembre, che è magari abituato in questo momento a mettere la macchina davanti casa, devi offrire la possibilità di trovare il parcheggio sicuro, non la lotteria del parcheggio girando più di un'ora per trovarlo. E per cui diamo la possibilità agli abitanti del centro storico di avere un parcheggio che sia il parcheggio riservato agli abitanti del centro storico, in modo tale per dare a loro anche la tranquillità che possono accogliere il turismo senza che sia un fastidio. Il turista che passa attraverso le strade del centro storico deve trovare un ambiente accogliente, ma anche illuminato. Se tu vai, se tu giri Cefalù di sera, vedi che è in penombra, non c'è un'illuminazione. Sono tantissime strade dove mancano le lampadine, dove le lampade sono... Ecco, tutti questi problemi, che sono sembrano piccole cose, va bene, fanno parte di un restyling che ha fatto Cefalù, partendo anche da queste piccole cose, per cercare di... A 360 gradi. Per cercare far partire di nuovo una città accogliente. Saro, devo fermarti. Non è l'albero di Natale che si mette poi 5 giorni prima del Natale. Serve anche quello per abbellire, ma non solo quello. Io devo dare atto a una cosa, però, che il cittadino può fare anche da sé quando... le amministrazioni, voglio dire, o chi fa da pungolo, come l'opposizione consigliare, come un'associazione di giovani, voglio dire, sono da pungolo all'amministrazione, ma anche il libero cittadino. E porto un esempio per tutti: il nostro editore Angelo Arduino, va dato merito, ha fatto ripulire, salendo qui per la radio, dei cespugli, ha messo delle piantine, delle cose graziose, rendendo quell'angolino molto grazioso, per cui è anche un senso civico di noi cittadini, non sempre, come dicevi prima tu, la manna deve aspettare che arrivi dal cielo. Ti fermo un secondo, è una battuta, ma molto stringatamente, perché devo dare gli sponsor, una a te, una a lui. La battuta, la domanda è questa: qualora tu dovessi arrivare a gestire le sorci di questo paese come sindaco, qual è la prima cosa che poni in essere, che per tanti anni hai avuto nella scarpa come oppositore e che non ti hanno fatto togliere? Qual è il sasso nella scarpa che ti toglieresti non appena, nel senso buono, cioè nel senso di creare un qualcosa di diverso che hai paventato per tanti anni dentro la tua mente, ma che non è stata mai possibile realizzare meno da parte degli altri? Cosa faresti subito dopo eletto come tuo punto forte della tua futura amministrazione? Continuare quello che stava facendo un segretario che io apprezzo molto, e che è Rosario Bonomo, e che è un segretario che è venuto qui e stava mettendo mano a far partire la macchina del comune. Il comune di Cefalù, così per come è organizzato, non funziona, non offre servizi. Noi siamo, io ieri sera lo volevo dire in consiglio comunale, poi in sessione straordinaria urgente convocata per il bilancio il 21 dicembre, che già la dice lunga, bilancio di previsione il 21 dicembre, cioè 9 giorni alla fine dell'anno, è qualcosa di veramente assurdo soltanto pronunciarlo. Poi ho evitato. Noi comune, cosa volevo dire per esempio? Volevo dire che abbiamo ricevuto un richiamo dalla prefettura, perché siamo stati uno dei comuni che ha offerto meno servizi per il censimento. Cioè il comune che è stato più scarso nell'offrire servizi al cittadino per il censimento. Non basta questo per dire che la macchina non funziona, sono tantissime altre cose che per uno come me, che dedica moltissimo al ruolo che svolge da molti anni, io sono stato capogruppo di 5 consiglieri comunali nei primi 5 anni, ora di 3 consiglieri comunali, però dedico moltissimo tempo e mi informo quotidianamente di quello che accade in comune, e so bene come funziona, conosco ogni impiegato del comune e quello che può dare, e lì dove è messo e cosa potrebbe dare se magari se fosse messo in condizione di operare meglio. Ecco, quello che farei da subito è quello di riorganizzare la macchina del comune. Riorganizzare la macchina del comune, perché deve essere messa in condizione di dare il massimo, non soltanto per i cittadini, per offrire servizi ai cittadini, ma per cercare di lavorare nell'interesse della stessa collettività. Mi raccomando, interventi più brevi, perché sennò qui arriviamo alle 4 di pomeriggio. Invece all'amico Campo, lui chiaramente è, come giustamente dicevamo prima, navigato nella politica diversi anni, a tu per tu con le varie amministrazioni, ha portato avanti molte denunce, ha fatto in modo che le cose venissero a galla, quelle che erano sommesse. Invece tu personalmente, come presidente del tuo gruppo, quindi parli per tutti quanti gli altri con i quali ti confronti civilmente e democraticamente, non può essere che così, invece cosa ti proponi e cosa vi proponete prima, durante e dopo la campagna elettorale? Quali saranno le prospettive? Mi raccomando, quattro poi, che tanto ha spazio dopo che dico gli sponsor, quindi lui magari raggiungerà il suo posto di lavoro, mentre tu, scusami, ti trattieni ancora con noi o vuoi lasciarci, Saro? Ti puoi intrattenere. Allora, quali sono i prossimi impegni nell'immediato, prima della campagna elettorale? Cosa proporrete ai due candidati sindaci, 3, 4, quelli che saranno, nella scaletta da 1 a 10 al primo punto, secondo il vostro parere, cosa c'è da inserire? E poi naturalmente fatte le elezioni alla una nuova compagine che andrà a occupare il Palazzo Municipale, quali sono le richieste da parte dei giovani, in questo caso, per una migliore fruizione lavorativa, perché quello è l'aspetto, anziché bivaccare, dicevi questo, coglievo questo aspetto nel tuo ragionamento, che non fa una piega. Cosa quindi vai a chiedere all'amministrazione comunale per porre in essere da subito le prospettive future, per, non dico un lavoro sicuro, perché oggi di sicuro non c'è nulla, ma quantomeno delle prospettive. Quali sono le future lotte che voi andrete a porre in essere? Ma noi è chiaro che non mi raccomando, risposta, perché Saro è un politico e si dilunga, ma tu ancora non lo sei, stai iniziando adesso, ti prego, sì. Vorrei coerciderti un po', dai. Dico, non abbiamo almeno per il momento le stesse ambizioni del consigliere, quindi candidato La Puntina. Tengo a precisare che il nostro non è un operato fine all'ambito elettorale. Non a caso la domanda non può che essere quanto mai pertinente, in quanto sabato scorso abbiamo portato a termine la prima conferenza programmatica, con in primis la sfida di la nostra scommessa è quella di rivederci all'indomani delle elezioni. Non a caso abbiamo anche già programmato la seconda conferenza programmatica, che sarà già a giugno, quindi per chi ha dubbi sulla nascita e sull'operosità del circolo fine alle elezioni può ricredersi sin da adesso. La domanda, dicevo, è pertinentissima, perché nella nostra conferenza stampa, nella nostra conferenza programmatica abbiamo appunto delineato quelli che sono i cardini della nostra azione, partendo appunto dal concetto della rivoluzione culturale nell'ambito castelbonese, nel senso di vivere la civitas, di vivere la nostra polis. Segue senza dubbio il perno più importante, a nostro avviso, almeno in questo momento, che è quello economico-occupazionale. Non a caso stiamo lavorando ad un serio e devo dire innovativo biennale economico per Castelbuono, una cosa che nessuno ha mai fatto, almeno fino adesso, con importantissimi esperti sia locali che all'interno di istituzioni anche regionali. Abbiamo anche nella stessa conferenza programmatica delineato un piano di rivalutazione culturale, partendo da quelle che sono le strutture, quindi nell'ambito sportivo. Tutte iniziative che convergono alla centralizzazione dei giovani, alla rivalutazione, partendo dal principio che il prodotto culturale, il prodotto giovani castelbonese viene prima della considerazione che attualmente si è avuto dei giovani, e pertanto quello che verrà successivamente certamente sarà migliore. Noi speriamo che il nostro possa essere un ausilio importante, non dico determinante, perché noi abbiamo la presunzione di essere parte integrante. È chiaro che qualora venissimo interpellati all'interno di qualche coalizione politica, potremmo dire la nostra, poi se avremo modo di chiarire alcuni passaggi, anche argomenti scottanti che sono accaduti giorni addietro, ne farò ulteriormente chiarezza. Fermo restando che io poi darò la parola anche alla controparte, perché è giusto certamente che sia la par condicio. No, ma è giusto così. Poi, essendo no, la radio, devo dire che è pregevole confrontarsi con una parte opposta, ma soprattutto una parte estranei, diciamo, al nostro ambito, quindi almeno per me è un motivo di ulteriore crescita. Beh, fuori di dubbio che io, essendo parte in causa, cioè il conduttore di questa trasmissione, do spazio, microfono a chi vuole intervenire per contraddire magari alcune posizioni da te denunciate, sì, o per avere il contraddittorio, è fondamentale in una trasmissione. Diritto di replica. Detto questo, metto in stand by i due amici che parlano dei problemi, voglio dire simili, ma allocati in location diverse, Castelbuono e Cefalù. Ne avete sentite già alcune di queste posizioni, alcune di queste denunce di come sta andando l'economia a Castelbuono e a Cefalù. Addirittura lì si può giocare ancora a golf a Castelbuono, mentre a Cefalù ci sono delle voragini. Cercheremo poi nel futuro di capire se chi andrà a governare questa città, la città paladina per eccellenza, riuscirà a porre rimedio a tutto ciò, e chi a Castelbuono salirà il massimo gradino, se sarà nelle condizioni soltanto di portare avanti ancora ulteriormente la nomea di questo paese con tutto quello che rappresenta nel bene e nel male, ma di tappare queste falle di modo tale che nessuno vada a giocarci a golf. Mentre il tecnico, il fonico si presta a sistemare alcune situazioni, io do lettura di altri sponsor, come giusto che sia, perché sennò vi ricordo che senza questi non si può fare nessun programma. Allora, se siete a Castelbuono per un sabato sera, una domenica, giorni festivi, la festa della donna, non dovete fare altro che andare al Disco Pub al Texano, vi rinvia Abruzzo 10, perché c'è musica dal vivo ed è importante, potete anche giocare con i videogiochi, potete avere la stanza riservata per chattare con i computers, c'è il poker online, quindi avete l'ampissima scelta, soprattutto stare seduti al Disco Pub a drinkare tranquillamente e a parlare di quello che vi pare con i vostri amici. Disco Pub al Texano a Castelbuono, via Abruzzo 10, musica dal vivo e naturalmente con degli assaggini particolari, e poi perché no, un buon drink non guasta mai, soprattutto con questo freddo. Passiamo a Gangie, che è il paese dell'amico La Punzina. Allora, si avvicina il Natale, si avvicina il Capodanno. Oggi certo la decurtazione economica e le tasse non ci consentono di mettere mani facilmente al nostro portafogli, però un regalo, quando è fatto bene, con gusto, voglio dire, resta per sempre, quindi vale la pena di spendere magari 100, 200, 300 euro per un regalo che è gradevole da, piacevole da fare e gradevole da ricevere. Cosa bisogna fare? Andare da Piscitello Preziosi, via Corso Umberto 1 a Gangi, telefono per avere informazioni 0921 644 327 oppure www.piscitellopreziosi.com. Gioielleria, dunque, allora abbiamo i solitari, della Cometa Gioielli, della Nardelli e Donna Oro, già firme che la dicono lunga. Se poi invece volete regalare a vostra moglie, al vostro marito, al vostro figliuolo, alla vostra cognata, a chiunque vi pare, un orologio, perché questo, mentre scandisce il tempo, ricordi la vostra persona, beh, l'orologeria è di ampio assortimento, come Sector, Philip Watch e Bresson. E ancora, poi, la produzione degli acciai sono importanti, come sempre per quanto attiene gli orologi, Gus, Nomination, Alvero Martini, Gio e Roberto Cavalli. Ragazzi, cos'altro dirvi? C'è tutta una scelta che potete fare, anche capezzali olio su tela potete andarli a trovare, visitate questa gioielleria di Piscitello Preziosi in via Corso Umberto 1 e naturalmente acquistate sotto le feste di Natale e portate a casa un pezzo pregiato da regalare a chi vi sta particolarmente a cuore. Se invece volete restare per cena o pranzo a Castelbuono, beh, dovete andare a Trattoria La Lanterna. Perché vi cito La Lanterna? Perché trovate tutto il cibo, cioè lo chef vi prepara i piatti tipici madoniti. Vi faccio un esempio per tutti: pasta fresca casereccia, olio d'oliva e prodotti dell'orto locali, funghi stagionali di bosco raccolti nelle madonie, pietanze a base di carne provenienti dai pascoli madoniti, dolci realizzate e pensate secondo le antiche ricette sempre di Castelbuono e dintorni. Oh, c'è un'altra, sempre se poi volete dormire a Castelbuono, visto il cattivo tempo che c'è, magari nevica, non volete partire perché l'autostrada è anche interrotta, dovete fermarvi a cena se volete, o a pranzo se lo desiderate, ma per pernottare sicuramente al Psigro Palace Hotel a Castelbuono. Il Psigro Palace Hotel, per le vostre prenotazioni, è al seguente numero 0921 676007. Il sito è www.ipsigropalace.com. È un ambiente riservato, carino, grazioso, dinamico se volete, aria condizionata d'estate, riscaldamenti, frigo bar, supera c'è 4 stelle, dico, vi ho detto tutto, e poi l'accoglienza è veramente formidabile, bar all'interno per la vostra colazione, per il vostro caffè, d'estate la terrazza sopra l'hotel dove passerete serate indimenticabili con musica live e naturalmente una buona pizza. Il Psigro Palace Hotel lo trovate a Castelbuono. Allora, detto questo, io tornerei per pochi secondi la linea alla regia per una breve pausa musicale, al rientro le ultime battute con gli ospiti e poi ci salutiamo. I'm Sempre in ascolto di Carta e Penna, CRM Pirelli, vi ricordo la frequenza per chi si fosse messo in ascolto in questo momento, 101.4. Il programma che sta ascoltando, condotto in studio Filippo Glorioso, è Carta e Penna con l'ausilio tecnico, la parte tecnica di Simone Brancato. In studio, come sempre, personaggi eclettici, straordinari per molti aspetti. Oggi abbiamo voluto toccare un attimo l'argomento politica, tesa non come discorsi per blaterare, pur parler, come dicono i francesi, ma per capire in due cittadine delle più grosse che abbiamo nelle Madonie, Cefalù e Castelbuono, cosa c'è in questi paesi che ha funzionato, cos'è soprattutto che non ha funzionato e cosa bisognerebbe fare invece perché funzionassero nel futuro. Avete sentito il consigliere d'opposizione, candidato a sindaco alle future amministrazioni, il consigliere Lapunzina, abbiamo ascoltato il presidente dell'associazione Giovani Italia, l'amico Giorgio Campo. Adesso invece vorrei interloquire per pochi secondi, col consenso dei due i miei interlocutori iniziali, col vicepresidente di questa associazione Giovani Italia, che è il dottor Luca Armanno. Buongiorno. Dico bene? Ti puoi sedere qui, puoi parlare anche da quel microfono. Allora Luca, tu sei il vicepresidente, neolaureato in giurisprudenza, stai facendo praticantato, per cui impegnato in diversi fronti. Cos'è che ti ha spinto ad aderire a questa associazione? Qual era stata la molla che ha fatto scattare l'input per occuparti, tra virgolette, di politica? Allora, intanto buongiorno a tutti, ringrazio per l'opportunità di parlare in questa radio. Sinceramente il mio impegno in politica non è nuovo, però perché io sono stato sempre appassionato di politica, ho militato sempre nel mio piccolo, nei movimenti che nei vari partiti che sono succeduti negli anni nell'area del centrodestra. Che cosa mi ha spinto ultimamente? Come diceva bene poc'anzi il mio amico Giorgio, in un tempo di difficile, di crisi, che non riguarda solo l'economia, ma anche una crisi ideale e valoriale. Noi ritenevamo improcrastinabile un intervento dei giovani volto a dare un'idea di politica nuova. C'è secondo te nei giovani, a 360 gradi, parliamo d'Italia, poi non parliamo degli altri paesi, nei paesi arabi c'è stato un movimento forte da parte dei giovani, una spinta dal basso verso l'alto, catapultando fuori i vecchi canoni, i vecchi pilastri politici di quei paesi, per mettere la democrazia finalmente al centro della situazione. Tu pensi che, nonostante la politica sia stata scevra nell'affrontare le tematiche con i giovani, nell'ascoltare i giovani, nel proporre i giovani a nuovi volti nella politica, tu pensi che nonostante tutto ciò ci possa essere la possibilità dei giovani, voi siete l'esempio vivente, di attacciarsi alla politica anche a costo di fare agomitate? Io direi la verità, invece vedo che è questo per colpa, secondo me, del cattivo esempio che ci viene dato dalla politica intesa in senso generale, non solo a livello locale, ma a livello anche regionale e nazionale e sovranazionale, può anche oserei dire. C'è più che altro un sentimento di scontento e di abbandono dei giovani, lo stesso di allontanamento dalla politica. Infatti uno dei nostri motti era appunto quello di essere avanguardia. Avanguardia di che cosa? Avanguardia di un modo nuovo di fare politica, che deve essere intesa non come un servizio per se stessi, ma come un servizio per tutti. Infatti le nostre iniziative in tre mesi di vita, come elencava poco fa Giorgio, sono lì a testimoniare questo nostro impegno che va oltre ciò che serve a noi stessi, ma è per il bene, fra virgolette, di tutti. Il problema del dissesto delle strade, il problema della legalità e trasparenza dell'azione amministrativa, come è stato per esempio nel caso citato dello spostamento dell'edizione del centenario del Giro Podisso, era un esempio lampante di questo. Perché noi pensiamo appunto che in un tempo dove i valori sono in crisi, solo la riscoperta degli ideali e dei valori può porre un argine ad una situazione di questo tipo. È la lotta che abbiamo fatto all'ARS contro i deputati indagati e condannati, va anche va a testimonianza di questo, cioè la riscoperta dei valori di trasparenza e legalità. La legalità, noi siamo di destra e siamo per la legalità, noi siamo anche e soprattutto, vorrei dire, i figli di Paolo Borsellino, senza che nessuno si appropri di questo. Se mi è permesso, anzi, volevo fare un accenno ad una cosa che che è accaduta domenica e non mi è piaciuta molto. Cioè, siamo stati accusati pubblicamente in un'assemblea pubblica di essere immaturi e di non sapere fare politica. Scusa, allora, interrompo, ma mi pare che da quello che stai dicendo vedo che la Punzina, che è un fine dicitore politico, annuisce. Significa che i ragazzi non è vero che non sono maturi, non è vero che non possono avere prospettive politiche, non è vero che sono degli irresponsabili, ma tutt'altro. Le parole che tu stai denunciando mi pare che la dicono lunga sulla vostra formazione culturale da un lato, ma soprattutto umana dall'altro. Quindi voglio dire, le idee sono molto chiare, prego. No, dico, se noi siamo fieri di non sapere fare questo tipo di politica che viene fatto ora, e se una persona che ragiona con la propria testa e ha degli ideali e li persegue con linearità e coerenza, se questa persona è un immaturo, allora noi siamo immaturi. Noi invece riteniamo di essere immaturi, insomma, persone fra virgolette serie. Grazie Luca, belle parole, ti faccio tantissimi auguri di buon Natale, pregherei il Presidente di riprendere la posizione. No, no, parole sacrosante, devo dire, la Punzina, io ho 53 anni e forse ero immaturo all'età che aveva lui, ne avrà 24, 25, il 23 anni, ecco, pensate, parole sagge, parole che la dicono lunga. Io mi farebbe piacere che questi discorsi li ascoltassero soltanto gli amici politici locali di Cefalù, di Castelbuono, che l'altra sera ci sono stati un po' di battibecchi, forse ingiustamente accusati i ragazzi, ma di questo ne chiederemo poi conto a chi ha fatto un'azione del genere, per capire come mai ci si è posti in questi termini nei confronti di chi comunque cerca di portare avanti, come te, sei all'opposizione, da parte dei giovani, di portare avanti delle prospettive nuove per un futuro diverso loro, perché loro sono poi quelle che sostituiranno noi nel fare il sindaco, nel fare il magistrato, nel fare l'insegnante, sono le future generazioni. Io non so in quale contesto è stata fatta questa affermazione, per cui di immaturità, però devo dire che magari uno lo può pensare anche in modo diverso, ma arrivare a fare un'offesa sia pesante. Tu dicevi poco fa di confronti, ecco, è importante proprio fare il confronto, non con la replica, col diritto di replica, che per carità bisogna dare a tutti, ma bisogna fare il confronto avendo qui l'interlocutore. Io più volte ho cercato, per esempio, ma ora torno a parlare dei problemi di Cefalù, più volte ho cercato di confrontarmi con l'amministrazione attiva su diversi temi, dal tema finanziario al tema della vivibilità, al tema del turismo, a quella che riguardano i servizi, la questione dell'edilizia a Cefalù, la vicenda del piano regolatore generale, il porto e tantissime altre cose. Ecco, su questi temi c'è un'assenza al confronto. Il confronto è importante, ma il confronto è importante per la crescita, per evitare che si facciano errori che si sono fatti, per evitare che per cercare soluzioni per il futuro, ecco, perché noi altri in questi anni, guarda, io ti posso dire che in 10 anni di attività io ho fatto, a parte diciamo le interrogazioni che sono un pungolo, ma ho presentato qualcosa come 300-400 emendamenti, proposte consigliari che non sono mai state presentate da nessuno in Consiglio Comunale. Cioè, noi abbiamo presentato proposte di delibera, va bene, quest'anno quella per esempio del regolamento per l'associazione, della consulta, ma negli altri anni tantissime altre proposte di regolamenti di cui il Comune di Cefalù è sprovvisto, proposte che vengono che poi vengono sottoposte all'esame del Consiglio e approvate. Ecco, tutto questo perché? Perché è evidente che, come dicevo poco fa, bisogna passare a cercare di risolvere i problemi, e quando ci sono dei giovani come questi che oggi sto incontrando qui alla radio si riuniscono, cercano di contagiare questa loro passione nei confronti anche della cosa pubblica e dell'interessarsi alla cosa pubblica ad altri giovani, cercano di approfondire gli argomenti delle ideologie politiche, al di là anche di quelle che possono essere alle inesperienze all'inizio, perché evidentemente nessuno sa tutto di tutti, perché sarebbe un presuntuoso e basta. Bisogna diciamo incoraggiare queste cose, perché la politica non è soltanto di alcuni, di coloro i quali magari lo fanno per professioni, professionisti della politica, perché bisogna sempre avere paura dei professionisti della politica. La politica è l'interesse cercare di risolvere le questioni che riguardano tutti, e non l'interesse di risolvere le questioni che riguardano alcuni o pochi. Per cui è importante che venga fatta la politica con passione e con dedizione, sapendo che evidentemente ci si perde anche qualche volta anche qualche amico e anche gli affetti familiari. Io ricordo sempre che quando sono stato eletto Nel 2002 come consigliere comunale mia figlia aveva qualcosa come 7 anni. E oggi sono quasi 10 anni che faccio il consigliere comunale. Te la trovo diciottenne. Me la trovo quasi diciottenne, ho dedicato meno tempo a quelli che sono gli affetti familiari, evidentemente perché ho dedicato moltissimo tempo alla questione, alla cosa pubblica. A me non interessava fare il consigliere comunale per mettermi magari una maglietta di sono consigliere comunale, per cui sono diverso da tutti gli altri cittadini. Il consigliere comunale io l'ho svolto sapendo che ogni giorno era un approfondimento che dovevo fare, sapendo che non mai sono andato in consiglio comunale senza sapere di che cosa parlavo, ed è per questo che la cittadinanza mi ha premiato. Io sono stato il secondo degli eletti nel 2002, il primo degli eletti del 2007 con 357 voti su 222 candidati. Spero che la punzina spero che questo sia veramente qualcosa che possa continuare. Una volta, se dei giovani si avvicinano alla politica, si avvicinano alla cosa pubblica, mai di che questi sono dei giovani arroganti, eccetera. Sono degli immaturi. No, quello mai. Stiamo parlando di soggetti. Ti stoppo un attimo e poi ci salutiamo. E l'ultima battuta all'amico Campo: mi raccomando, non essere prolisso come lui, è bravo ad essere prolisso. Tu cerca per cortesia di essere stringato, perché il fonico sennò ci chiude i rubinetti e non posso fare gli ultimi sponsor. Allora, nell'immediato futuro abbiamo detto che ci sarà sempre questo pungolo. La gente cercherete di avvicinarla sempre di più, denunciare le cose che non vanno, denunciare in senso tra virgolette, non denuncia penale, ci mancherebbe. Siete agguerriti nel senso che non vi farete prendere mai per il collo, ma combatterete fino all'ultimo sangue pur di porre in essere le vostre idee, non con l'essere soverchianti nei confronti degli altri, ma col dialogo qualora questo dovesse esserci. Nel caso in cui invece non trovaste una contropartita. Ma noi stiamo lavorando con il netto intento di non essere schiavi di nessuno. Non a caso mi sono permesso di dire in assemblea, è stata l'assemblea della coalizione centrodestra domenica, dove diciamo c'è stata questa piccola bagarre. Non a caso ho rivendicato il ruolo di nuovamente identitario, ecco, ritorna questa parola che è costante nel nostro operato, identitario per quanto riguarda la destra, Castelbuono. Non ho paura, non ho timore a dirlo, in quanto siamo noi e continuo a ribadirlo. Ma guardi, nel nostro cammino non abbiamo assolutamente previsto la possibilità di essere presenti nell'ambito elettorale. È stato quasi fisiologico, dato la grandezza che costantemente e passo dopo passo assumiamo in termini di apprezzamento, che siamo stati inseriti nell'ordine delle forze politiche, e lo facciamo sempre con umiltà. Ma soprattutto con la logica di chi vuole spendersi positivamente in maniera utile per il paese. Noi stiamo cominciando a dialogare anche con altre entità giovanili. Non a caso ringrazio anche l'amico Vincenzo Eppolito, che sta lavorando con un gruppo prettamente giovanile che si chiama si chiamerà Idee per Castelbuono, forse l'anteprima per quanto riguarda la presentazione. Incontreremo al momento molte identità giovanili, evitando di cadere nelle accozzaglie, nei luoghi comuni di chi ci vuole tirare per la giacchetta. Infatti ripeto, non saremo e non siamo schiavi di nessuno. Il nostro operato rimarcherà sempre i nostri valori, i nostri ideali, per prendere la Castelbuono ai nostri padri e fare una Castelbuono migliore per i nostri figli. Gli auguri di Natale, ve li concedo 2 minuti, poi gli sponsor e poi dobbiamo salutare, il fonico ci taglia la linea, prego. Allora, è evidente che, come ho detto poco fa, è tempo di cambiare le cose, mettendo evidentemente ciascuno di noi le proprie energie, le proprie capacità a disposizione di tutti, e per raggiungere che cosa? Un obiettivo, l'obiettivo è quello di una vera e propria svolta nella gestione della città, per cui io con questo augurio faccio tanti auguri anche, scusate la ripetizione, di Buon Natale e Felice Anno Nuovo a chi ci ascolta, Buon Natale e Felice Anno Nuovo all'amico glorioso che oggi ci ha ospitato qua. Ben volentieri. A tutti i giovani, non solo a quelli presenti come al presidente Giorgio Campo, al vicepresidente, ma a tutti i giovani che sono qua, ma a quelli che fanno parte della di questa giovane Italia, e a tutti quelli che evidentemente in questo momento magari stanno riflettendo se mettersi a disposizione della politica. Io penso che questo ne valga la pena, perché l'impegno deve essere da parte di tutti, lo diceva poco fa Glorioso, e evidentemente ognuno di noi può fare la sua parte, e se vogliamo cercare di risolvere i problemi, cercare di avere un futuro migliore, evidentemente ognuno di noi deve farla. Spero che se farei il sindaco sarei così prolisso in consiglio comunale, perché se no i consiglieri, gli assessori. Scherzi a parte, ancora ci saluta allora l'amico La Puncina, ma resta con noi, poi ci faremo gli auguri personali. Il tuo augurio invece per Natale? Ma innanzitutto mi corre l'obbligo di ringraziare il signor Glorioso, nonché tutta la Cefalù Radio Madonie. Non conoscevo personalmente il consigliere La Puncina. Sei innamorato, diciamo. No, ma devo dire che è stato veramente un piacere, oltre che un momento di crescita e di maturità, e spero, perché no, si possa rinnovare. Questo rimarca appunto il fatto che noi siamo aperti al confronto, intendendo quello che qualcuno vuole definire come scontro, come un momento di incontro. E di crescita. E di crescita soprattutto. Esatto. Poi valuteranno gli altri il livello di maturità o meno, però mi auguro che il nostro operato oggi a Castelbuono possa essere definito come il valore aggiunto dei giovani castelbuonesi, dei giovani che sono stati da tempo messi da parte e che avranno e hanno l'occasione di far sentire la sua voce, non cadendo nel mero sindacalismo giovanile che a Castelbuono è dilagato con qualche presenza in consiglio di qualche giovane, a mio avviso tuttora anziano, sia in consiglio che in giunta. Ha un futuro anche su Zelig, insomma, battutaccia. Dai, diamo gli auguri che dobbiamo stringere. L'augurio che faccio soprattutto alle famiglie in un periodo piuttosto buio per quanto riguarda la vita quotidiana di ognuno di noi, è sperare che quest'anno si possa chiudere portando via le negatività e tutto quello che attanaglia le famiglie, affinché il 2012 possa essere più sereno, approfittando appunto del momento delle festività natalizie in cui una famiglia si unisce, sperando che possa essere di esempio per l'unità di tutte le istituzioni, affinché si possa realmente migliorare questo periodo di stasi e negatività. Grazie. Fermatevi qui, la parola la prendo adesso io, dicendo chiaramente da parte di tutte e due i miei ospiti sono stati dette le cose sagge. Io dico soltanto devo parlare agli sponsor e poi vi faccio i miei auguri personali di Buon Natale. Intanto passatevi la cena di Capodanno, il cenone di Capodanno alla Perla di Engiu, Parco Hotel, sala ricevimenti a Gangi, cucina regionale ma anche cucina internazionale. È una struttura a 4 stelle stile Liberty, con una piscina che d'estate può essere usufruibile, mentre d'inverno c'è un ampio salone per i vostri convegni, per i vostri concerti, ma soprattutto per la sera di Capodanno. Andate alla Perla di Engiu, Parco Hotel, sala ricevimenti a Gangi. Telefono per le vostre prenotazioni 0921 689281. Se invece dovete dopo le feste naturalmente arrivare alla vostra casa con le porte interni, dovete soltanto telefonare allo 0921 67 70 12 al 2M Porte che Arredano, gamma di porte di interni, laminato, ciliegio, verghè e palessandro, oppure le porte in rovere massiccio a 600 euro compreso incluso il montaggio. Poi ci sono le porte fuori misura, dovete andare quindi alla 2M per prendere le vostre misure e proporre quelle che sono le vostre idee. Arredo di interno, mobili su misura, maniglie di porte, c'è una vastissima gamma. 2M Porte che Arredano a Castelbuono, 0921 67 70 12, per chiamate sempre prima per avere un incontro. C'è una novità in assoluto per l'energia alternativa, per abbassare i costi della bolletta, ma per guadagnare, per tagliare la bolletta e guadagnarci su cosa si fa. Dunque, allora vi parlo di Medielet, che è un'azienda leader nel settore del fotovoltaico, quindi dei pannelli solari. Un FON 4 per un impianto fotovoltaico definito entro la fine dell'anno, con cui in remoto da dovunque luogo voi vi troviate, loro possono controllare la produzione e il funzionamento. Cioè, in sostanza, vengono a casa vostra, vi fanno il preventivo, montate i pannelli solari, avete energia a tasso zero, ma nello stesso tempo il fotovoltaico azzera la bolletta energetica e genera reddito. Ricordate che ognuno di noi ha un unico tetto ed occorre investire bene, installando il sistema fotovoltaico più efficiente al mondo, il sistema SunPower. È l'azienda che garantisce l'installazione per 20 anni, e la Medio Elettra, ricordate questo nome, Medio Elettra, enfatizza molto il concetto di come si può tagliare la bolletta dell'Enel, ma allo stesso tempo guadagnare sulla produzione che i pannelli solari da voi posti in essere vi faranno guadagnare. Medio Elettra è in via Ugo Lamalfa 61 bis a Casteldaccia. Chiudiamo con una notizia sulla gastronomia, sto parlando di una cooperativa Farinella, la CP, cooperativa di carne a Gangi, la email è via Nazionale 60 Gangi, 0921 64 50 44, carne bovina, suina, agnelli, castrato, polli, tutti rigorosamente prodotti nella cooperativa, quindi senza ulteriori aggiunte tranne che di cose naturali, salsiccia di puro suino, salsiccia speziata, salsiccia capricciosa, i salami chiamati felini, salami cacciatorino, la salsiccia asciutta, lo speck e pancetta di produzione propria, per cui in questi periodi andate a fare la spesa all'ICC di Farinella, la cooperativa a Gangi, perché portate a tavola un pezzo veramente di madonie nel vostro palato. Poi vi posso anche dire gli involtini di vitello, involtini di maiale, Filadelfia e pistacchio, che è una chicca straordinaria. Non vi dico altro, vi invito ad andare a trovare la cooperativa IACC di Farinella a Gangi per le vostre notazioni, 0921 64 50 44. Mi pare che abbiamo finito. Io ringrazio gli ospiti che sono intervenuti, tanti giovani, il vicepresidente, il presidente dei Giovani Italia, Luca Armanno e il Giorgio Campo, il dottor Giorgio Campo, e ringrazio ancora, come no, e faccio i miei migliori in bocca al lupo per il suo futuro politico al consigliere d'opposizione oggi, l'amico Lapunzina, al quale faccio a lui e a tutti quanti i commensali, ma anche a tutti quelli che ci stanno ascoltando, che ci hanno seguito per questa quasi un'ora e tre quarti di trasmissione, un felicissimo Natale, un buon 2012, speriamo sia col tempo che sia un po' più clemente, ma soprattutto nel portafoglio possiate trovare qualche centinaio di euro in più. Un grazie ad Angelo Arduino, a cui faccio anche i miei auguri di buon Natale, felice anno nuovo, e poverino, sperando che il 2012 lo trovi con un Filippo Glorioso un po' più tranquillo scherziamo anche, e poi a Simone Brancato, che si presta moltissimo con la sua competenza dalla parte tecnica, ci segue come sempre per carta e penna. Questo programma, che vi ricordo, va in onda ogni giovedì e ogni domenica in differita, mezzogiorno e 10 giovedì, 9:30-10 invece la domenica. Grazie ancora per essere stati con noi, buon Natale e buon anno a tutti. Abbiamo trasmesso Carta e Penna, programma di informazione a cura di Filippo Glorioso.